mondo. YouTube Social Village di Marta Cagnola. Eccoci insieme in diretta per le nostre due ore del sabato con RadioTube Social Village e Social Network. La prima ora con un sacco di spettacoli, tanta musica questo sabato, ma anche tanta televisione, serie TV. E poi parleremo di una bellissima iniziativa che di solito si svolgeva in persona nel mese di novembre, in presenza nel mese di novembre a Milano. Adesso per quest'anno diventa necessariamente una serie di eventi in streaming, e quindi non sarà più solo una ricorrenza milanese, ma potrà raggiungere tutta Italia, e varrà la pena parlarne insieme e scoprire di cosa si tratta. Ma per saperlo dovete stare con noi per questa ora di RadioTube Social Village, mentre la seconda ora, quella di RadioTube Social Network, come sempre ci parlerà di tutta l'attualità della rete e dalla rete. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp, e poi ci sono i miei account social, chiocciola Marta Cagnola, su Twitter e su Instagram. Con cosa partiamo? Con le serie TV? Dai, partiamo con le serie TV con questa clip. Due donne al comando. È l'ultima cosa che serve a questo paese. Forse è proprio questo che serve al paese. Il mio obiettivo è cambiare questo paese da una posizione subalterna a una di autosufficienza, e so che sarò in grado di raggiungerlo. Disoccupazione, recessione, crisi. Penso sia pericoloso farsi nemici a sinistra, a destra e al centro. Non se sia proprio agio ad avere nemici. E lei lo è? Decisamente. Un giorno, caro ragazzo, diventerai re. Questo è il tuo dovere adesso, costruire il tuo destino con una ragazza che sarà amata dal popolo come principessa e a tempo debito come regina. I am the sun and the air. Voglio solamente essere amata. È quello che vogliamo tutti da lei. Con il tempo abbandonerà le sue lotte, deporrà le armi come fanno tutti. E se non dovesse piegarsi, che succede? Si spezzerà. Sta per arrivare, non vediamo l'ora, mancano poche ore alla quarta stagione di The Crown, la serie di Netflix che racconta la storia della regina Elisabetta II. Ma dove eravamo rimasti? A che punto della storia della regina Elisabetta eravamo rimasti con The Crown, con le stagioni che avevamo visto finora? Ne parliamo con una carissima amica mia e di RadioTube, espertissima di cose reali, Giorgia Olivieri. Ciao Giorgia! Buonasera a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori, buonasera. Allora Giorgia, dove eravamo rimasti? Perché qua il racconto si fa interessante. Dove siamo? Dove siamo alla fine della terza stagione? Allora, ci siamo lasciati con il giubileo della regina nel 1977, ed è un ponte interessante quello che si viene a creare, perché con un ottimismo, un grandissimo ottimismo, non solo da parte della regina ma anche da parte nostra, siamo subito proiettati a giugno del 2022, perché la regina Elisabetta ha programmato il giubileo per i 70 anni. E quindi ci crediamo. Regina Elisabetta, che peraltro abbiamo visto per la prima volta con la mascherina, quindi... Esatto, la prima volta era senza, la seconda abbiamo visto con la mascherina, ma tanto lei a questo punto... C'è una scena nell'ultima stagione di The Crown con Margaret, che insomma ha ingerito qualche pillola di troppo, facendo prendere un bello spavento alla regina, che in quel momento si sta per dimettere un primo ministro, che lascerà poi la strada a Margaret Thatcher, che vedremo nella prossima stagione, e le dice: quanti primi ministri hai già visto? E lei all'epoca era il 77, mi pare di ricordare ne avesse già visti 7, figuriamoci quanti ne ha visti oggi. Comunque ci lasciamo appunto nel 1977, questa stagione copre un arco temporale che a noi, diciamo, nate negli anni 70 più o meno, fine 60, primi 80, insomma, ha anche un aspetto emotivo molto forte, perché andando a coprire la fascia di tempo tra il 77 e il 1977 e il 1990, diciamo che finalmente arriva quel momento in cui anche noi abbiamo dei ricordi di prima mano. Non sono più storie tramandate di nonne, zie o persone più grandi, ma sono cose che abbiamo, sono fatti che abbiamo sfogliato noi nei rotocalchi, mi piace dirlo, perché quando sfogliavamo appunto gente oggi e sognavamo per le vicende appunto di Lady Diana, che sarà la grande protagonista di questa stagione, ora possiamo dire la nostra, possiamo ricordarci degli abiti, possiamo emozionarci forse un pizzico di più. Allora, a proposito di abiti, io ti chiedo subito, visto che ne hai scritto anche su Vanity Fair, l'abito da sposa di Lady Diana. Io sono molto curiosa di vedere la ricostruzione di quell'evento, perché visto che partiamo dal 77 e ci siamo in pieno. Beh, sai, quello è uno degli eventi ancora insuperato, perché fu un matrimonio con tutti gli sfarzi del caso. Il velo di Lady Diana, che mi sembra fosse lungo 25 metri, se ricordo bene non era stato ancora superato in lunghezza. Carlo appunto erede al trono, Diana doveva diventare regina e quindi quel vestito si caricava di grandissimi significati. Gli stilisti, la coppia marito e moglie, gli Emanuel venivano chiamati, volevano proprio portare all'altare la principessa delle fiabe, e diciamo che ci sono riusciti. Noi vediamo, Netflix è stata straordinaria nel centellinare immagini, trailer, insomma, caricandoci di aspettative incredibili che secondo me saranno, poi non saranno tradite. E quindi ci hanno fatto vedere Emma Corrin, che è questa ragazza che interpreta appunto una giovane Lady Diana, con quest'abito un po' smarrita come probabilmente era lei. E fa sorridere perché le foto, le cronache ci riportano delle immagini con quell'abito stropicciato, un po' appunto sgualcito, perché era di un tessuto ovviamente che era facile a sgualcirsi, e nei piani, quando era stato disegnato, non era stata contemplata la figura del padre di Lady Diana in carrozza, che essendo un po', diciamo, corpulento, aveva contribuito un po' a sgualcirlo. Però anche quelle pieghe fanno parte della storia, tant'è che una commentatrice su un post di Netflix mi ha fatto ridere, perché ha detto: bello l'abito, ma mancano le pieghe. potevano fare le piegoline esatto. Certo. Noi non lo certo. sappiamo, perché quello è un prima, magari il dopo lo vediamo tutto acciaccato come ci raccontano le cronache. Tra l'altro abbiamo sentito questo trailer che diceva il potere in mano a due donne. È interessante anche questo. Una ovviamente la regina, e l'altra la intuisco, visto il periodo storico. Sì, noi d'altra parte adesso facciamo tutti gli stupiti con Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, ma in realtà noi negli anni Ottanta abbiamo avuto veramente queste due figure gigantesche. Non entro nel merito, non do giudizi, però Margaret Thatcher è stata sicuramente una persona, nel bene e nel male, molto importante per la Gran Bretagna. E è bello vedere questo duello, perché sembra quasi, perlomeno per quello che ci ha fatto vedere Netflix nel trailer, e ha un piede teatrale, no? Queste sfide, questi duelli che loro hanno nei loro colloqui settimanali. Consiglio di vederlo, magari anche solo, che ne so, un po' switchando tra l'uno e l'altro, di vederlo anche in lingua originale, perché secondo me Gillian Anderson, che interpreta appunto Margaret Thatcher, ha fatto un lavoro sulla voce veramente pazzesco. Come un lavoro sulla voce, proprio dal punto di vista, voglio dire, mimetico, nel tentativo appunto di essere più aderente al personaggio, che ha fatto Emma Corrin, perché a me veramente, per quel poco che ho sentito, proprio sembra proprio di sentire Lady Diana, la principessa dei cuori, sembra proprio di sentire lei. Per cui solo, allora, quello che mi colpisce, veramente per il quale non vedo l'ora, che vedremo veramente delle storie con luci e ombre, però di grandissime, grandissime donne. E poi tanti auguri a te, tanti auguri a te. Oggi è il 14 novembre, è il compleanno del principe Carlo. Beh, insomma, ma facciamo gli auguri al principe Carlo. Facciamo gli auguri. Ma certo, anzi, non lo so, perché è in Germania, mi sa, quindi forse ha da fare oggi. Non so, ma il podcast. Recupera il podcast, Charles. Quindi auguri, caro principe Carlo. E beh, decisiva per lui questa stagione di The Crown, perché noi l'avevamo lasciato che ancora nei suoi pensieri c'era solo Camilla. Ma guarda Marta, questa stagione, secondo me questa serie TV ha veramente il grande pregio per noi che ci siamo schierate, diciamocelo, quando negli anni 80-90 di rimettere un po' in fila le cose, essere un po' più indulgenti sui cattivi, tra virgolette, no? Quindi stiamo adorando la regina Elisabetta e capiamo anche le ragioni di Carlo. Carlo, questo re, questo futuro, questo erede al trono perenne, che negli ultimi anni, insomma, noi l'abbiamo odiato tantissimo, diciamocelo. Però abbiamo cominciato a capire anche le sue ragioni. Ma la cosa che mi diverte di più quando scrivo appunto questi pezzi sullo stile reale per l'online di Vanity Fair è vedere l'impegno di Carlo per la moda, che uno non lo direbbe mai, no? Però Carlo in realtà è molto attento, soprattutto si è fatto portatore adesso di un messaggio di moda sostenibile, lo aveva descritto in un'intervista al British Vogue della settimana scorsa, che anticipava l'uscita di una collezione, insomma, dove lui in qualche modo è un po' il supervisore, no? Per cui Carlo per il suo 72esimo compleanno si è regalato una collezione di moda in collaborazione con Yves Saint Laurent. Chissà cosa avrebbe detto Diana. Ecco, allora facciamo una cosa, diamo al volo la viabilità e poi ti faccio un'ultima domanda. Viabilità e poi saremo ancora insieme con Giorgio Olivieri. Radio Tube Social Village. Allora Giorgia, prima di dare la linea al nostro prossimo ospite, voglio chiederti una cosa al volo a Giorgia Olivieri, che è la nostra esperta reale. Tu penserai che ti voglio chiedere ancora una cosa su The Crown, che inizia domani con Netflix. No, siccome tu sei anche una gallerista, hai una tua galleria, voglio sapere, visto che hai questa nuova mostra, in cosa consiste questa tua nuova mostra che hai aperto ieri? Allora, io chiedo scusa ai galleristi e ai direttori artistici veri, no? Lo diceva del resto già Franco Battiato, lo citava il direttore artistico. No, è una boutade, se vogliamo, non è una galleria, si chiama Piccola Galleria, ma è una vetrina in centro a Bologna, proprio nel cuore del centro universitario, via Marsala. È una vetrina ospitata dal Caffè Rubik, che è un bar molto frequentato, pieno zeppo di musica e cassette, tra l'altro. Eh sì? E diciamo, io gestisco quella vetrina. Dopo una prima esperienza dove ho messo ospitato delle fotografie sul Festival di Sanremo davanti e dietro le quinte del fotografo Guido Calamosca, stavolta ho scelto una pagina che mi sembrava molto leggera e divertente un tempo, perché la seguivo da tempo. In realtà si è dimostrata quel leggero che però scalda il cuore, nel senso che è tratta dalla pagina Volano Scarpe, sono le immagini scattate da Chiara Paterna, che è una ragazza che lavora in aeroporto a Bologna, che durante le ore di lavoro, insomma, mentre lavorava, scattava di soppiatto delle fotografie alle scarpe che vedeva passare sotto il naso, delle scarpe buffe, delle scarpe alate, delle pinne, delle scarpe col pelo, io poi non voglio esprimere giudizi, perché tu sai benissimo che io giro con le ciabatte col pelo e i calzetti, per cui lungi da me, chi sono io per giudicare, come diceva già qualcun altro, però mi è sembrata veramente di buon auspicio. Innanzitutto una mostra di PCM proof, perché è una vetrina all'aperto, certo, e quindi già questo la rende divertente, se vogliamo, e in più vuole essere un auspicio. Noi dobbiamo fare di tutto affinché possiamo tornare a correre per gli aeroporti con i nostri trolley a cui facciamo fumare le ruote e speriamo appunto di ripartire, perché abbiamo scoperto che quel mondo che abbiamo calpestato con le nostre scarpe più o meno buffe era molto piccolo, perché siamo tutti nella stessa condizione. Quindi veramente teniamo duro e andiamo avanti e facciamo che... Quello è un auspicio, un messaggio affinché noi possiamo riscoprire quel mondo che ci piaceva così tanto di prima, il prima possibile. Ecco. Sono d'accordo con te. Allora, chi fosse a Bologna si faccia una passeggiata a via Marsala, cercare la piccola galleria. Sì, sì, sì, sì. No, poi abbiamo detto di PCM proof. Se siete lì, passate davanti alla piccola galleria via Marsala. Grazie a Giorgio Olivieri. In a presto. A tutti noi. A tutti noi, è vero. Crepi il lupo a tutti noi. Ciao Giorgia. Adesso un po' di musica. c'è niente di speciale in questi tempi. Ogni cosa luccica per sé. È normale che poi ti ci perdi. È una gara per non vincere. E anche se il mondo è fermo qua giù, non è l'inferno che pensavi. Nessuno chiama, sei solo tu. Come stai? Per me è tutto ok. È uscito in ottobre e sta andando molto forte il suo nuovo album Mentre Nessuno Guarda. Lui mi piace un sacco perché è introspettivo, a volte un po' ombroso. La sua musica è un po' notturna, raffinata. Torna con noi a RadioTube Corrado Grilli, cioè Mecna. Ciao! Ciao! Bentornato Corrado, grazie di essere ancora con noi. Ci eravamo sentiti in un momento di lockdown e non avremmo mai immaginato di risentirci ancora in condizioni così complicate. Però perlomeno questa volta hai un disco in più. È stato produttivo questo periodo per te, dai, almeno questo. Sì, no, no, assolutamente. Innanzitutto ciao, grazie a voi. No, sì, alla fine credo sia per noi artisti l'unico modo di continuare a esistere, non so come dire, che poi è anche, insomma, un bel modo, direi. I live ovviamente sono una cosa fondamentale, no? Anche per la crescita di un artista, però in questo momento non ci sono e ho sentito spesso dire, no? Alcuni artisti non facevano uscire i dischi, erano interrogati sul farlo uscire oppure no. Io non voglio fare il figo, però non ho mai avuto grossi dubbi sul farlo uscire oppure no, perché, come dire, mi sembrava inutile aspettare chissà quando per un disco che invece è la fine di un momento. Quindi piuttosto ne faccio altre due in attesa dei live. Però ecco, ci tengo a farli uscire quando ce li ho pronti. C'è sempre un po' di autoironia, un sacco di introspezione, un filo di malinconia che è molto tua, ma non solo nei testi, anche le sonorità sono in alcuni momenti, allora, sempre curate, ma un pochino più cupe, più notturne. Sì, allora, questa cosa dei suoni io, insomma, l'ho sempre cercato tanto, perché poi la musica che ascolto capisco che mi piace proprio per il mood che riesce a creare. Parlo ovviamente magari del soul, dell'elettronica un po' più soffusa di tanti producer americani ed europei. Quindi quello che ho sempre cercato di riportare poi nella mia musica è questo. E fortunatamente vedo che comunque questo messaggio viene recepito, cioè questa ricerca e questo tempo che perdiamo, no, presso al suono giusto, all'atmosfera giusta, poi in realtà viene molto fuori. E sono contento ovviamente, perché poi appunto io mi sono sempre reputato uno molto solitario, però in realtà poi nel fare musica non sei mai da solo. Cioè sì, sei da solo magari quando scrivi, quando esprimi le tue cose, però comunque già lo stai facendo sulla musica che ha fatto qualcun altro. Per qualcun altro magari è un tuo amico, però comunque, come dire, comunque è condivisione ed è comunque un lavoro di squadra. E insomma, questa cosa di chi fa le basi io cerco sempre di valorizzarla il più possibile. Solitario, ma collaborazioni collaborazioni con artisti dalle personalità molto diverse tra loro, anche molto diverse dalla tua, età, generazioni diverse. Da Gue Pequeño, che ormai è uno dei maestri della scena, non sto dicendo che è vecchio, sto dicendo che è autorevole, e Madame, insomma, generazione completamente diversa, giovanissima, generazioni diverse dal punto di vista musicale e anagrafico. Sì, è vero, ma infatti questa cosa credo sia caratteristica anche di, diciamo, mi rispecchia molto, perché comunque io mi reputo uno un po' nostalgico, però comunque cerco sempre di guardare al futuro, no? E forse effettivamente nelle collaborazioni di questo disco, come hai detto tu, si, si evince ancora di più, perché ci sono c'è un Gue Pequeño che comunque appunto è un po' una leggenda del rap italiano, della musica italiana, però ci sono anche artisti, come dire, magari della mia stessa età o con più o meno il mio stesso seguito. Ci sono appunto, c'è Madame, che invece ha fatto praticamente due pezzi ed è già super quotata, eccetera. E poi sono comunque tutti artisti, anche Gue Pequeño, che ovviamente è quello che già da subito, quando è uscita la tracklist, no, qualcuno diceva ma cosa c'entra? In realtà secondo me c'entra, perché appunto poi nei suoi dischi ci sono sempre tanti, tanti pezzi anche molto personali e intimi che appunto magari non ti aspetti da lui, perché conosci le sue cose che più famose, che sono anche lo specchio di una parte un po' più, volendo, superficiale. Però in realtà in lui e in tutti gli artisti poi c'è tutta una ricerca anche di quello che piace a me fare nella musica, cioè parlare di se stessi. Io devo dirti che sui social sei una forza, cioè insieme a Gaemon siete i più irresistibili. Mi piace moltissimo, soprattutto su Twitter. Sì, no, non lo so, mi diverte, è una cosa che ho da tantissimo tempo e ho sempre usata in realtà, anche quando appunto magari non mi seguiva nessuno. Adesso che insomma c'è sempre più seguito, è anche più divertente. Però sì, diciamo lì esce il mio lato un po' più cazzone, ecco. No, lo dico anche perché sembra che tu sia solo un cupo, un introspettivo, sì, no, invece esatto, no, esatto, sei esatto. Anche una persona molto simpatica e fai molto ridere. Poi noi che siamo un po' ruvidi, siamo i migliori, dai. Esatto. Come ti stai preparando al periodo che arriva? Hai voglia di scrivere, di fare cose? Ma sì, in realtà guarda, non ho mai veramente smesso di scrivere. Già prima dell'uscita del disco ho fatto qualche session in studio, eccetera, quindi comunque, come ti ho detto in apertura, cioè, sto cercando di vivermi questo momento nella maniera più serena. È ovvio che mi dispiace tantissimo non portare immediatamente questo disco, che poi tra l'altro è anche molto energico, sarebbe molto figo da fare live dal vivo, però ecco, non posso neanche battere i piedi e piagnucolare, quindi cerco di essere costruttivo e, come dire, provare comunque a fare nuovi pezzi, non so, qualcosa di nuovo, perché appunto, ecco, diciamo che si sta dimezzando un po' la vita dei dischi, che già era corta, però adesso senza i live è diventata ancora più corta. Quindi ecco, è bello anche trovare dei modi diversi, ecco, per continuare a magari a farli vivere i dischi. Ecco. Vabbè, ti toccherà fare dei liveoni, perché hai fatto un sacco di dischi. Quando si potrà uscire, esatto, farai live lunghissimi di ore. Live Aid. Grazie a Mecna, grazie a Corrado per essere stato con noi. Un abbraccio grande, a presto. Anche per me, grazie mille. Radio Tube Social Village. E prima di tornare a parlare di musica, una bella, anzi bellissima notizia: Jannik Sinner ha vinto il suo primo torneo ATP nella finale del Sofia Open. L'alto atesino ha battuto il canadese Vasek Pospisil 6-4, 3-6, 7-6. Sinner era stato il primo classe 2001 a raggiungere una finale ATP e adesso ha vinto il torneo. E ora musica. Silenzio, l'estate è soltanto un sogno. sì, la vita che volevo è tutta qui, gli amici che sognavo proprio così, fatti di carne e ossa e di un bel film. Ho fatto molti sogni per arrivare qui, qui, qui, qui, per arrivare qui, qui, qui, qui. Si chiama Contatto. Il nuovo album dei Negramaro, il singolo è in testa alle classifiche radiofoniche ormai da 3 settimane. Aspettavamo da tre anni un disco dei Negramaro. In questo periodo hanno fatto molte cose e hanno anche dovuto superare un brutto problema di salute di Lele Spedicato, ma Lele ce l'ha fatta, il gruppo è tornato al completo con questo che è definito un concept album. Mancava solo una cosa quando hanno cominciato a costruire quest'album, proprio il titolo. E da dove è venuto questo contatto? Quello che è successo è semplice. Noi abbiamo finito con Amore che torni, con un anno, con 2 anni e mezzo di lavoro incredibili, con cose strepitose, stellari, il ritorno agli stadi, ai palazzetti. C'è stata una cosa che ci ha legato ancora di più alla vita, alla nostra amicizia, al fatto che poi la musica era un corollario alla fine di tutto quello che siamo, come dicevi tu, una famiglia, sì, in realtà è molto di più di una famiglia, è una famiglia contemporanea, quindi allargatissima. È successo qualcosa che ci ha in qualche modo paralizzato per istanti e subito dopo esploso con la vita di Lele, che ci ha portato di nuovo a nuova vita. Abbiamo iniziato a scrivere quest'album più di un anno e mezzo fa. Contatto a più di un anno di scrittura. La cosa eclatante per questa parola, che poi è diventata, credo, la parola più importante, più ambita nel pianeta Terra. In realtà è una canzone, è un titolo che ho usato già più di un anno fa per raccontare quello che comunque sta succedendo nel pianeta, cioè nell'era digitale. È chiaro che ci eravamo accorti proprio fra noi sei, che eravamo abituati a fisicità, ad abbracci, a qualsiasi tipo di contatto stretto. A un certo punto, mentre parlavamo o chattavamo, qualsiasi cosa altra fosse, mi sono reso conto che quella parola aveva veramente la parola che per antonomasia nasconde, anzi ha dentro di sé la fisicità, il sangue, la carne, la pelle, il tatto, il contatto, appunto, si era svuotata di tutta questa fisicità. Quindi più di un anno fa avevo voglia di riportare fisicità a questa parola. Quello che è successo poi durante questi mesi incredibili in cui questa parola è diventata tutt'altro, cioè ha fatto il triplo salto vitale, diciamo, ed è successo questo, cioè da fisica è tornata ad avere una fisicità ma anche un altro lato nuovo. Cioè, contatto oggi è la parola più sognata, quindi ha un lato onirico che è stupefacente. Quindi in questo momento si è scelto da sé il titolo, la title track dell'album. Durante il lockdown ci siamo spaventati un casino, si è arenato il sogno. Io mi ricordo che non sognavo più, quindi a un certo punto lo stesso Ermanno nella chat dei Negramaro mi dice: Giuli, stavamo facendo un disco. Mi immaginate, in primavera, maledetta primavera, avrebbe ricantato a Goggi. È successo questo, mi ha svegliato quella frase di Ermanno e abbiamo ricominciato da casa, ognuno nel suo home studio, a recuperare i pezzi del disco. Andro da Milano ha iniziato a fare il collante per poi realizzare questo lavoro. Noi resteremo in piedi sulle rovine degli altri, ci gonferanno gli occhi per non avere rimpianti, e passeranno stagioni, lunghi mesi e poi anni, allora meglio che siedi, perché faremo tardi e non avremo paura di sentirci più grandi. Quando si è nell'ombra si ha molto tempo davanti per capire meglio cosa c'è da fare, per restare vivi una vita e non per un istante, per capire meglio. Sempre Contatto, il nuovo disco dei Negramaro. Giuliano San Giorgi, che ha detto noi facciamo politica, ha spiegato cosa vuol dire per loro fare politica, non stare più zitti, insomma, dice che è un po' un dilemma quasi shakespeariano, ecco perché. Essere o non essere. Il mio essere o non essere è essere un uomo oppure un cantante. è riferito a una band, riferito a un artista in genere, il discorso è sempre quello: veramente devo essere un cantante che non deve esprimere un'opinione perché devo fare solo musica e intrattenimento d'ascensore? No, non mi va. Semplicemente non è che voglio essere partitico, politico, prendere la parte di quello. Io voglio dire quello che penso. Dove lo posso dire? Ho 40 anni, sono stanco di dirlo in maniera edulcorata, educata. Tanto l'educazione non c'è più. Io sarò sempre educato nel dirlo. Però era anche la voglia, noi resteremo in piedi in un momento che abbiamo in cui abbiamo attraversato, anzi Lele per noi ha attraversato le tenebre fino ad arrivare alla luce e ridarci la luce a noi. Io l'unico ringraziamento che ho fatto a Lele quando è tornato fra noi, ho detto: Lele, fratello, grazie perché non ci hai cambiato la vita. Cioè questa era un momento anche quello di crisi fra un uomo e un cantante, passatemi questo confronto nella mia crisi esistenziale, però era per dire: io adesso ho un'età, io ho sempre raccontato delle cose e vorrei che fossero ancora più comprensibili, più vicine a quelle cose che vorrei in qualche modo avere un pensiero, perché sennò sembra veramente che dobbiamo fare la musica giusta per ballare, riempire concerti e stare insieme. Lo si fa, io l'ho sempre fatto, io ho sempre messo nelle canzoni cose abbastanza grandi, ma sempre parlando di piccole storie a due, perché anche quello è fare politica, no? Il fatto di avere una band, la fortuna è proprio quella di poter essere in confronto con la nuova musica, sempre, con le nuove cose da dire, sempre, altrimenti i Negramaro sarebbero rimasti fermi al 2003 e sarebbero scomparsi. Sembra di capire che è una scelta che proprio non vuoi fare. Provi gusto a stare ad aspettare, fingendo di arrossire, fingendo di star male. E io ancora che ti giro sempre intorno per rubare un solo sguardo, uno al giorno. Resti zitta e non ti chiedo mica il mondo, e gira gira il mondo e tu sei qui nel mezzo. I Negramaro hanno parlato anche del futuro, di come vedono il futuro che ci aspetta, sempre ovviamente vivendo questo periodo un po' preoccupato, con la consolazione di questo nuovo disco, quasi una culla. Eccoli qua, Negramaro. In questo momento non è il sogno, come dicevamo, solo il sogno, ma è proprio una culla. Una culla anche di pace, dentro cui abbiamo inserito queste canzoni anche per raccontarci un po' di pace a noi stessi, perché ne abbiamo bisogno. Per poter fare una cosa come quella di oggi, non solo bisogna sognare, ma bisogna anche dall'altro lato dirsi: ragazzi, dobbiamo sopravvivere fino al vero e proprio contatto che avverrà. Io non credo che la musica sarà questa, non credo che i concerti saranno questi, anzi ve lo dico, se fra due anni è ancora così, io cambio mestiere assolutamente, oppure canto per mia figlia, che almeno sento il calore e il sudore di lei o le lacrime, poco mi interessa. Questo è il momento in cui dobbiamo tutti sopravvivere per arrivare veramente al contatto fisico, ad avere quella cosa che oggi, ragazzi, la mia preoccupazione più grande è che mia figlia possa avere la cosa di cui più ho schifo nella vita, che è la diffidenza nei confronti dell'altro. Mia figlia deve amare lo stronzo come chiunque altro, deve amare le persone, non deve avere paura sul pianerottolo di casa come abbiamo paura oggi di incontrare una persona in mascherina. La mascherina serve, è sacrosanta, ma sarà un ricordo per noi e spero che i bambini la dimenticheranno, perché è l'unico modo per avere, perché abbia senso la letteratura, la musica, i libri, il cinema, i sogni, tutto quello che facciamo, non ha senso senza essere insieme. Cioè l'unica salvezza è l'altro da sé, e questo è il discorso di oggi. È inutile raccontarsi cattiverie, cinismi inutili, dilaganti e di moda. Poco interessa, sarà anche materiale da rap o da altro genere musicale o da altra letteratura culturale, ma l'importante è che bisogna ricordarsi che tutto questo aspetto più estetico, ruvido, è importante perché ci fa arrivare di nuovo a una boccata d'ossigeno. Se non c'è l'altro, se non c'è l'umanità, il pianeta anche che ritorni, speriamo, alle fattezze dell'origine, pulito e con ossigeno e per tutti con una bellezza che il mondo deve avere, questo mondo senza queste persone, senza la pelle, l'umanità, sarebbe nulla. Non è vero che mi manchi, è solo aria nei polmoni. Ora che la tiro fuori, tornano tutti i respiri. E mi sentirò già meglio, basta che io non ti guardi. E in un attimo sparisci, come se non esistessi. Non è vero che ti cerco, sono giorni in cui ti vedo. Dentro tutte quelle cose che con te poi c'entra un poco. E sei tu a farti trovare nelle stanze, nelle strade, nelle solite rincorse, nelle stupide riviste. E non è vero. E allora spiegami, come faccio a nascondermi che nel buio di una notte sai sorprendermi? Ma musicalmente com'è questo contatto? Andiamo ancora con i Negramaro. Desidero proprio non solo cambiare per semplicemente perché è bello cambiare, perché alla fine ci sono tanti grandi artisti che non sono mai cambiati, che però hanno avuto una cosa così grande e forte che forse nei secoli non hanno avuto necessità di cambiare, anzi sono diventati dei fari di civiltà e di cultura. Però è anche vero che questo disco, più andiamo avanti, più è una summa di tutte le canzoni, la musica che ci è sempre piaciuta, l'elettronica, i grandi bassi, le profondità dei bassi. Ermanno è tornato addirittura nella terra di nessuno a slappare, il funky, cioè tutto quello che ci è piaciuto nella nostra vita musicale, sia quello che abbiamo fatto negli anni che quello che non abbiamo fatto, ma che ci appartiene a livello di mood. Parlavo prima di quelli che erano gli anni 90 dell'urban, dell'hip hop, sono rientrati, ma semplicemente hai bisogno di una vita musicale per poterli riadattare a te stesso. Quindi sembra che tu sia cambiato, ma fondamentalmente vai a fare quella cosa che ho sognato da quando ero piccolo. Cioè il mio primo singolo, il mio primo 45 giri costava 3.700 lire, scappavo dal catechismo a cui non volevo andare e mi andavo a comprare Don't Believe the Hype, The Public Enemy, Run DMC, LL Cool J, ma semplicemente perché vorrei ricordare che l'amore per il rap che ho sempre avuto, che poi è tornato in Mentre tutto scorre, in Nuvolo e Lenzuola, in tanti brani, in Ridammi indietro il cuore, c'è sempre stata questa attenzione, non al genere, ma alla sostanza del rap. Cioè, che cos'è il rap che ancora oggi, e forse ancora di più oggi, che siamo vicini al simbolismo vero e proprio, dove le parole contano tanto e dove il rap ha fatto tanto in questi anni italiani, dove finalmente Come profondo il mare di Lucio Dalla ha un senso anche fra i ragazzi perché ascoltano finalmente tante parole e non si annoiano. Però quel rap lì in qualche modo è una cosa ancestrale, è una filastrocca, è la prima musica che un bambino vuole, ecco il grande successo del rap tra i bambini. Quindi semplicemente non è che ho cambiato molto di me stesso, se non il fatto che ho studiato la maniera per dire meglio le cose, e in questo ci passa, ahimè, la voce. Radio Tube Social Village. E questo è sempre stato un momento bello dell'anno per chi fa musica, per chi ama la musica e chi vive a Milano, perché sta per iniziare, e ogni anno iniziava in questo periodo, la Milano Music Week. Ma cosa si fa quest'anno? Non si può uscire, è zona rossa. Niente paura, la Milano Music Week si fa con un sacco di eventi in streaming e quindi altro che Milano Music Week, la Milano Music Week va in tutta l'Italia, ci sono un sacco di cose belle e ne parliamo subito con il presidente della FIMI, Enzo Mazza. Ciao Enzo! Ciao, ciao a tutti! Allora Enzo, intanto il problema è che io la prossima settimana dovrei anche lavorare. E quindi ho guardato il programma e questo è un grosso problema, perché io me li vorrei vedere tutti gli eventi. Ce ne sono tantissimi. Sì, tra l'altro tu dicevi che va in tutta Italia, in realtà va in tutto il mondo. In tutto il mondo, in tutto il mondo. Fatto, diciamo, di questa necessità virtù, nel senso che quest'anno abbiamo potuto coinvolgere, grazie allo streaming, tantissimi relatori anche dall'estero, che spesso era difficile portare qui a Milano, perché poi voi sapete meglio di me che novembre è anche la nostra settimana cadeva regolarmente nel Thanksgiving Day e nel weekend del Thanksgiving, e quindi avevamo pochi ospiti, soprattutto da oltre Atlantico. Quest'anno ne abbiamo diversi, quindi diciamo che stiamo cercando di realizzare qualcosa che poi rimane, anche perché, come abbiamo detto, Music Works Here è qualcosa di professionale che serve anche a tutti coloro che in questo momento magari non sono al lavoro, meno fortunati di noi, nel senso che noi lavoriamo almeno, ma c'è anche chi purtroppo soffre una crisi gravissima, che è quella del mondo del live, ed è a casa e ha forse con questa settimana anche la possibilità di fare un po' di formazione. Fammi dire che insieme a Fimi c'è ovviamente il Comune di Milano, c'è Nuovo Imai e c'è Asso Musica, quindi un'occasione per confrontarsi tra addetti ai lavori, ma non è solo per addetti ai lavori, un po' perché ci sono anche un sacco di concerti e di cose che si possono vedere appunto anche a distanza, ma è un po' uno spaccato della musica dall'interno. Sì, l'idea era appunto quella di cercare quest'anno di fare qualcosa che raccontasse intanto l'industria che c'è dietro alla musica. Come sappiamo, ci sono tantissime attività, tantissime professionalità che non sono solo quelle ovviamente del mondo dei concerti, ma anche quelle dell'industria discografica, dell'editoria musicale e di tutti coloro che ruotano intorno alla produzione di un disco, chiamiamolo così ancora. Ma questo principio sul quale abbiamo cercato di costruire l'evento poi è diventato qualcosa che alla fine servirà anche per le nuove generazioni. Noi abbiamo per esempio visto tantissimo interesse dal mondo delle università, dal mondo degli studenti che ci scrivono per chiedere appunto di partecipare a questi panel, di seguire questi panel, che poi in realtà basta collegarsi, quindi non c'è nessuna registrazione. Però questo dà l'idea un po' di quanto interesse si muove intorno anche a questo mondo, soprattutto perché c'è il digitale, soprattutto perché ci sono delle innovazioni fortissime all'interno di questo settore. Tra l'altro noi adesso abbiamo appena ascoltato l'incontro che abbiamo fatto questa settimana con i Negramaro. I Negramaro 17:15 in streaming free lunedì. Io sto guardando il programma, andatelo a guardare su milanomusicweek.it perché ci sono veramente un sacco di cose. Anche concerti, ci sarà questo Lennon 80 per gli 80 anni di John Lennon, tante tante cose anche appunto non solo di parola ma anche di musica. Sì, chiaramente la questione del live streaming è oggi un tema rilevante ed è in questa fase l'unica opportunità per cercare di tenere collegati i fan a degli eventi musicali, quindi chiaramente la Milano Music Week ha cercato di mettere a disposizione il più possibile anche eventi musicali, così come avveniva nelle sue edizioni tradizionali. Noi avevamo sempre concerti, showcase, incontri con gli artisti, e chiaramente si è cercato di riprodurre questo con le capacità e le tecnologie che oggi sono disponibili. Mi sembra che si sta trovando un buon mix che tra l'altro sarà utile anche poi come esperienza per le prossime edizioni, che a questo punto, sperando di tornare tutti dal vivo, potremmo comunque integrare anche con tutta questa serie di eventi e di esperienze che abbiamo costruito con questa edizione. Sì, direi che questa parte di streaming può essere in qualche modo una bella esperienza per continuare ad aprire la Milano Music Week al resto, ho detto, dell'Italia, appunto del mondo. Sì, certo, questo consente oggi di scambiare tantissimo. La musica è ovviamente globale, come sappiamo. Sono globali i linguaggi, ma sono anche globali le opportunità che in questo momento vengono offerte per poter discutere di queste tematiche. Io ogni settimana, faccio un esempio, io ho una call con tutti i colleghi di tutto il mondo, ci troviamo all'una del giovedì, per fare il punto sulle varie situazioni e come i governi stanno rispondendo negli singoli stati, quindi dagli Stati Uniti all'Australia, a Nuova Zelanda, all'Inghilterra, noi, la Francia, e è incredibile come con queste tecnologie abbiamo potuto raccordarci e mettere insieme tutta una serie di elementi, costruire anche dei documenti congiunti che poi vengono utilizzati per fare attività di sensibilizzazione dei governi. Quindi il paradosso è che oggi, grazie anche a tutta questa crisi, ci siamo completamente reinventati anche da questo punto di vista, che sicuramente, come dicevo prima, rappresenta anche una grandissima opportunità per il futuro, soprattutto perché le esperienze internazionali sono in grado di far crescere, no, i singoli paesi. Tutti noi, quando ci confrontiamo con altre esperienze, possiamo solo crescere. Grazie, grazie a Enzo Mazza, presidente della FIMI, grazie Enzo per essere stato con noi. A voi. a presto. milanomusicweek.it, ci vediamo lì, come si suol dire. Adesso il GR, poi saremo ancora insieme.